premetto che le trans a Napoli sono una presenza storica, oserei dire ancestrale, ci sono sempre state, è la comunità più antica del Mediterraneo. Detto questo, le tre trans fermate erano in centro, in pieno giorno, due in un bar a prendere un caffè e una, insomma, passeggiava nella zona della stazione, nello specifico del Cinema Argo, che è un posto storico di ritrovo per gay, trans, femminili, eccetera, eccetera. I vigili urbani e la polizia le hanno fermate e multate perché secondo loro indecorose, secondo loro si stavano prostituendo, secondo loro, come dire, molto discutibile, perché ognuno può dire quello che gli pare. Fatto sta che con queste multe e questi fermi si è fatto un salto indietro di 40 anni, quando le trans venivano fermate e arrestate e mandate al confino. Potrei citare numerosi esempi e potrei dirvi che comunque tutte le trans avevano questo destino, non del confino a cui furono mandate in poche, ma ci furono mandate, ma quelle di tutti i vari articoli, compreso l'articolo 1, delinquente abituale. Io non lo so il signor Minniti dove voleva andare a parare con questo decreto. Fatto sta che dove voleva, avrebbe voluto, non c'è arrivato, e ha colpito per l'ennesima volta le vittime, che sono le vittime di sempre. Quindi a me piacerebbe che i dirigenti, il ministro non manco ci penso perché è lontano da me anni luce, facesse un po' di conti e facesse un po' di calcoli su quali sono gli effetti e cosa quali sono poi le attuazioni reali di questo decreto. È scandaloso da tutti i punti di vista, non la lasceremo perdere così, ci stiamo muovendo per vie legali, ci stiamo muovendo per vie, insomma, in tutti i modi, però e insieme all'ATN, che è l'associazione napoletana, l'associazione Trans Napoli, arriveremo dove dobbiamo arrivare. Le trans non pagheranno assolutamente le multe, questo, come dire, poco ma è sicuro, però qualcuno dovrà pagare per quello che è successo, perché c'è stata una lesione dell'orgoglio e della dignità della persona. Di questa legge colpisce da un lato la discrezionalità, cioè qualunque forza dell'ordine passi può dire che la persona stava facendo una cosa, anche se poi non è verificabile, insomma. Esatto. E dall'altro l'effetto è quello di colpire sempre la diversità. Mi sembra del tutto scontato, ma questo, come dire, lo avevamo messo in conto da quando si è profilato all'orizzonte questo decreto. Le varie associazioni, i vari enti che si occupano di difese di diritti, di dignità, come dire, questo l'avevano previsto. Mi sembra quasi scontato e mi sembra anche inutile dirlo, però lì si andava a parare ed è lì che secondo me i nostri cari dirigenti politici vogliono andare a parare, perché colpendo la fragilità, la debolezza, c'è intanto un effetto immediato, c'è un riscontro immediato perché si portano a casa dei risultati, i loro risultati, e però i problemi non si risolvono, i problemi almeno che pongono loro rispetto alla sicurezza, al decoro, eccetera, eccetera, problemi del resto tutti italiani.